Friuli nel mondo, 140esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il Friuli e le sue villotte. Ora, sui monti, sui colli, nelle pianure del Friuli, ferve il lavoro. La primavera è nella sua pienezza e dai campi l'uomo raccoglie i primi frutti delle sue fatiche e, contemplando le piantagioni in fiore, pregusta con la mente la quantità e la qualità del raccolto. L'anima del Friuli è lieta e le labbra della sua gente operosa si aprono al canto. Canto della semplicità e del lavoro, canto sereno che con queste villotte è un invito alla cordialità sincera e patriarcale d'un tempo. Vi presentiamo pertanto oggi, cari radioascoltatori, un mazzetto di canti nostrani nuovi e antichi che in perfetta fusione di spiritualità hanno il profumo della nostra terra. Dal coro di Villa Santina Sotto la Nape, diretto da Ernesto Dario, ascolterete La Vielute di Elio Fabbro, Sisilute d'Avril di Nino Sala e Luigi Ninis, Tu vas lontan di Giulio Moro e Carlo Quaglia, La Staiare dal mio paese di Mornello e Dino Virgilli, Ciampanis di Sabi de Sere di Luigi Garzoni, Francesca Nimis Loi e Alciante il Gial. Oh. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pellizzari.